Allora, questa prima riunione di due è sul ruolo dell'Italia e degli altri paesi, ma soprattutto dell'Italia nel Mediterraneo, alla luce del catalizzatore libico, che è di particolare importanza ovviamente per l'Italia. Ci sarà poi una seconda riunione in cui Valeria esporrà anche la situazione interna libica, perché è importante sapere cosa si muove in quel terreno socialmente o politicamente o anche come attori economici. La mia parte, quella che introdurrò oggi, è relativa soprattutto al ruolo del nostro medio imperialismo, medio a livello mondiale, importante e preminente a livello mediterraneo, anche se deve tener conto dei rapporti con una serie di stati più o meno importanti. La cartina che vedete serve in modo estremamente sintetico per mostrare il Mediterraneo centrale tra Libia e Italia, il canale di Sicilia, e il Mediterraneo orientale, che in questo momento ci serve parecchio. La cartina serve anche a indicare l'ampiezza delle missioni militari italiane, che sono attualmente 42 e mobilitano ufficialmente 8.500 uomini sul campo, per cui sono mobilitati almeno 30 o 40.000 uomini nel complesso tra logistica, comunicazioni e così via. Indicato questa cartina perché è particolarmente interessante vedere come l'intervento militare italiano all'estero, più o meno importante, riguardi il cosiddetto Mediterraneo allargato. Mediterraneo allargato è un concetto che è stato elaborato dai Soloni della difesa e dell'economia italiana per affermare che l'interesse, il confine italiano non è quello marittimo, non è neanche quello della costa africana, Algeria, Libia, Tunisia, Egitto, asiatica del Mediterraneo, ma è l'Africa fino quantomeno al Sahel. E vedete nella cartina un intervento in Mali, un altro in Niger, di cui parleremo dopo ovviamente, lo storico Corno d'Africa che affaccia sull'Oceano Indiano e perfino il Golfo di Guinea, perfino un cazzo, scusate l'espressione, perché lì vi è uno dei paesi con cui l'Italia ha maggiori interessi che la Nigeria, come sappiamo anche dalle ultime vicende processuali dell'ENI, e in cui è in questo momento mobilitata la Marina Militare Italiana. Si va poi all'Iraq e quindi al Golfo Persico e, seppure in ritiro, all'Afghanistan. Si va poi, e qui non è indicato un intervento italiano, ma è di particolare importanza, ne parleremo, al Mar Nero e al Caucaso, che sono stati teatri e che sono teatri di guerre assai pericolose, quella per il Nagorno-Karabakh e quella in corso nel Donbass. Quindi, questa cartina ci dà in modo sintetico l'idea che hanno i comandi italiani, la borghesia italiana, Draghi, del ruolo della zona di influenza e dell'importanza strategica dell'Africa, subsahariana, dell'Oceano Indiano e dei paesi del Medio Oriente per l'imperialismo italiano. E qui vi è da considerare anche un'altra questione importante. L'Italia in questo momento si trova al centro di un arco di crisi. Se si parte dal Mali, al centro, alla parte sinistra della cartina, guardando la cartina, dove in questo momento sono mobilitati 200 uomini, ma si sono all'avanguardia, delle neonate, diciamo ufficializzate, forze speciali italiane al fianco dell'esercito francese. Se si parte dal Mali, si va verso l'Italia e poi si curva ancora verso il Mar Nero e il Mar Mediterraneo e l'Iraq, vi è un arco di crisi e si ritorna al Corno d'Africa, vi è un arco di crisi in cui abbiamo in questo momento conflitti armati di maggiore o minore intensità. Al centro di quest'arco di crisi, che ha fatto da catalizzatore, abbiamo la Libia, di cui parlerò. Questo arco di crisi vede l'intervento, primo, di grandi potenze, innanzitutto ovviamente gli Stati Uniti d'America, più o meno presenti, ma sempre fondamentali in ogni questione militare e politica che qui affrontiamo. In secondo luogo, sia nel Caucaso, sia ovviamente nel Mar Nero, il Donbass, sia in Siria, in Libia e anche in Africa, la Russia. In terzo luogo, come attore su tutti i terreni, la Turchia. In quarto luogo, come attore su quasi tutti i terreni, escluso ufficialmente il Nagorno-Karabakh e il Donbass, anche se siamo presenti come NATO, l'Italia, e in concorrenza con l'Italia la Francia. Poi abbiamo gli interventi attivi, protagonistici anche, di potenze regionali, a parte la Turchia, e cioè l'Egitto, e oltre all'Egitto in parte l'Iran per quanto riguarda ovviamente la questione Iraq e Siria fino al Mediterraneo, e Libano per quanto riguarda la presenza di Hezbollah. Quindi è un punto, un ombelico delle guerre del mondo, senza voler svalutare quello che avviene in questo momento sul teatro asiatico e quello che sta avvenendo anche in Congo. È un ombelico delle guerre del mondo in cui l'Italia ha molto da perdere e molto da guadagnare, e cerca di svolgere in modo più o meno aperto un ruolo di intervento attivo, un ruolo di predominio, un ruolo di presenza, non solo con le cosiddette missioni di pace, ma come vedremo, con vere e proprie presenze militari offensive. Detto questo, possiamo dire che, a parte la questione siriana di cui oggi non discutiamo, ovviamente se ne potrà discutere, ma non è oggi l'argomento, la Libia dal 2011, e specificamente, senza tornare troppo indietro, dal 19 aprile 2019, data dell'offensiva di Haftar contro il governo di Tripoli, quindi 2 anni fa, la Libia fa da catalizzatore. Perché? Perché è lo Stato che è stato praticamente smantellato dall'intervento imperialistico franco-inglese e americano con il codardo appoggio italiano, il governo Berlusconi 2011. È uno Stato in cui la guerra è stata permanente dopo l'abbattimento del regime di Gheddafi, con una guerra per bande interna, bande che hanno cercato di primeggiare per spartirsi, senza poterlo fare, le ricchezze petrolifere del paese, e per farlo hanno cercato l'appoggio di attori esterni. Questi attori esterni sono praticamente tutte le potenze che ho prima nominato, e in particolar modo, e questo è interessante, al fianco dell'attaccante di 2 anni fa, Haftar, l'Egitto, gli Emirati Arabi e la Francia. A fianco successivamente dal cosiddetto governo dell'accordo nazionale installatosi a Tripoli ai primi del 2016 sotto la protezione italiana, in parte l'Italia e la Turchia, che è intervenuta militarmente con il finanziamento, che già veniva prima, dell'altro stato petrolifero che è il Qatar. A supervedere questo conflitto, che ha sconvolto il paese sul piano economico e sociale, ma che non ha visto l'intervento di masse in una guerra civile, a supervedere prima gli Stati Uniti, che sono apparentemente rimasti fuori dal conflitto, e poi con un intervento risolutore per fermare l'offensiva turca di un anno fa, la Russia con i suoi mercenari. In questo momento, dopo che per un anno e mezzo i due schieramenti con i loro alleati hanno ottenuto prima l'uno poi l'altro dei successi, la Libia è apparentemente spartita in tre campi: al campo occidentale, attorno a Tripoli, la Tripolitania, e dominata dalla presenza militare turca e dalle brigate del governo locale, che sono però tra loro divise, su questo non intervengo. A oriente del paese, sempre sul Mediterraneo, la Cirenaica, Bengasi, con la presenza militare russa e anche egiziana a fianco dei mercenari di Haftar. Al sud, e questo è di particolare importanza, il Fezzan, nel deserto, nel Sahel, un non dominio né da un lato né dall'altro, e quindi questa regione, la regione meridionale della Libia, diventa un buco nero futuro rispetto alla guerra che c'è stata fino ad ora, e vi spiegherò perché. La situazione di stallo sul terreno militare dopo l'intervento di attori esterni e pesanti quali la Turchia a fianco del governo dell'accordo nazionale e la Russia a fianco di Haftar ha portato a una linea di demarcazione che va dal centro del paese, in pratica dalla città di Sirte, fino al centro interno del paese, che è l'oasi di Kufra. Su questa linea non si è più combattuto da circa 9 mesi e sulla base di un equilibrio instabile raggiunto sul terreno si sono fatti dei passi politici importanti che sono il 23 ottobre 2020 l'accordo di tregua permanente e l'apertura del cosiddetto tavolo del confronto politico libico a Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite, Nazioni Unite che essendo divise al loro interno il Consiglio di Sicurezza valgono meno del 2 di picche con la briscola a fiori, come è stato dimostrato dal 2011 in avanti, ma che hanno potuto aprire questo tavolo e portare alla formazione di un nuovo governo che si è sostituito al precedente governo di Tripoli. Un nuovo governo che è stato nominato dai 74 delegati del tavolo del confronto politico libico, 74 delegati scelti scientificamente da un campo e dall'altro e che hanno sotto soprattutto influenza turca e russa dato il via alla nascita a febbraio del governo, adesso il suo nome non riesco mai a pronunciarlo, Valeria mi ha aiutato, Dabeiba, primo ministro e con un presidente al Menfi di Bengasi. Dabeiba è un uomo d'affari misuratino, ex grande burocrate ghettafista, che è venuto alla ribalta per i suoi rapporti pragmatici ma anche stretti con la Turchia per il momento, ma anche con l'Italia. Menfi, che è stato eletto presidente, è invece di Bengasi, ma non è schierato apertamente con Haftar. Questi due uomini, più i ministri 24 scelti con il metodo Cencelli tra gli uomini provenienti e anche 5 donne provenienti da diverse tribù del paese, questi due uomini sono stati poi approvati il loro governo dal Parlamento riunitosi per la prima volta a Sirte dopo l'esilio a Tobruk e che ha dato il via libera a questo governo. Questo governo ha delle basi per resistere come governo, ha delle basi interne, cosa rappresenta e cosa può rappresentare per gli ulteriori sviluppi di interventi esterni alla Libia. Questo è il punto. Questo governo, il governo Dabeiba, che si è insediato all'inizio di marzo, sembra avere il vento in poppa. Non passa giorno senza che Dabeiba o Menfi non incontrino un importante capo di Stato. Ad esempio, il primo ministro degli esteri che è stato ricevuto a Tripoli è stato Di Maio il 21 marzo. Successivamente, il giorno dopo, Menfi, il presidente attuale del Consiglio nazionale libico, si è recato a Parigi da Macron. Poi vi è stata la visita di Dabeiba, anzi prima di questo vi era stata la visita di Dabeiba al Cairo. Il 6 aprile, come sapete, è stata una giornata in cui l'aeroporto di Tripoli aveva un traffico notevolissimo. Mentre arrivava Draghi per l'Italia, arrivava anche Mitsotakis per la Grecia. Dopo di questo, il 6 di aprile, e di queste due visite parleremo, Dabeiba è stato convocato con 13 ministri e il presidente della Banca Centrale più il capo di Stato Maggiore a Istanbul, no scusate, a Ankara, e ha incontrato per 3 giorni Erdogan e i ministri turchi, ciascuno della partita, ministro degli esteri, ministro del commercio, ministro della difesa e così via. Quindi è un governo che in questo momento deve rispondere a diversi padroni, ciascuno presente in modo più o meno aperto e più o meno pesante in Libia, e ciascuno interessato a tirare questo governo dalla giacchetta verso le sue posizioni. Entro un anno, entro il 24 dicembre di quest'anno, questo governo dovrebbe, ma secondo me non ce la farà, convocare le elezioni generali e avere poi, dare poi alla Libia, sulla base di nuove elezioni, un nuovo Parlamento, un nuovo governo e così via. E dovrebbe nel frattempo facilitare la riunificazione delle bande armate in un unico esercito. Dobbiamo chiederci, può farlo? E a questa risposta, che verrà anche esaminata da Valeria nella prossima riunione, a questa risposta per quanto riguarda i rapporti della Libia con gli stati che intervengono per spartirsela, e non da oggi, noi possiamo probabilmente rispondere non ce la farà, per diversi motivi. Primo, questo governo cerca di essere la forza che riporta in Libia un flusso monetario corrispondente all'esportazione di petrolio che la Libia deve riprendere, e che con questo flusso monetario, circa 100 miliardi all'anno, dovrebbe garantire la ripresa economica e sociale. Questo programma apparentemente razionale, secondo me, ha difficilissime possibilità di essere realizzato, per la semplice ragione che in Libia in questo momento non è il governo che decide, ma sono le forze armate, delle bande armate che per ora non hanno fatto nessuna dichiarazione di accettazione dell'autorità governativa, per cui le bande armate tripoline che si sono spartite il controllo della città sono sul piede di guerra tra di loro e forse anche verso il governo, per cui a Bengasi e a Tobruk il generale Haftar mantiene le sue truppe mercenarie e locali, per cui nel Fezzan al sud le singole tribù del sud mantengono il controllo del territorio e non lo cedono al governo, ma soprattutto perché vi sono in questo momento non meno di 20.000 mercenari stranieri al servizio della Turchia, che ha posizionato in Siria da un anno e mezzo Italiagol e turkmeni che hanno fatto le loro scuole scuoiando purtroppo i guerriglieri curdi ad Afrin e successivamente. Vi sono i Janjaweed sudanesi pagati dagli Emirati Arabi per sostenere Haftar. Vi sono forze speciali italiane e francesi ai confini sud tra il Mali e il Fezzan. Vi sono i mercenari, tra virgolette, sono gli uomini verdi dell'Ucraina, la Wagner russa, che ha addirittura anche una ventina di aerei, di vecchi aerei Sukhoi e MiG nell'aeroporto di Al-Jufrah. Vi sono al confine le truppe egiziane. Di conseguenza la Libia rimane il ventre molle dal confronto tra le potenze che in questo momento si scontrano sul Mediterraneo. E la situazione libica dipenderà anche e soprattutto dagli sviluppi della situazione nell'est del Mediterraneo e anche, perché no, nel Mar Nero. Faccio un brevissimo appunto su questo. Nell'est del Mediterraneo, come sapete, da almeno 5 anni vi è la questione dello sfruttamento del gas scoperto dall'ENI e poi dalla Total tra l'Egitto, Cipro, Israele, Libano, e quindi la questione dello sfruttamento, della cosiddetta coltivazione di questi giacimenti e della costruzione eventuale di gasdotti che dal mare portino verso l'Europa. Questa situazione, ricerca di gas e sviluppo dei giacimenti con utilizzo delle risorse gasiere che è già in corso, vede uniti momentaneamente nell'EastMed Forum, Gas Forum, che è ormai diventata un'istituzione fondata tra diversi stati, e cioè Francia, Grecia, Egitto, Cipro Sud, mentre Cipro Nord è sotto controllo militare turco, Israele, e questa situazione vede questi e Grecia, questa situazione vede questi stati con la ruota di scorta italiana che aderisce all'EastMed ma vorrebbe trovare una soluzione con la Turchia, vede questi stati schierati contro la Turchia, cui non vogliono cedere alcuna, come dire, possibilità di sfruttare il gas nel Mediterraneo orientale, su cui la Turchia affaccia, ma su cui per motivi storici non ha sostanzialmente un controllo. La Turchia, proiettandosi in Libia, è riuscita anche a costituire la cosiddetta zona economica esclusiva, che in un modo piuttosto geometrico è fuori dalla realtà, ma comunque imposta dalla Turchia alla Libia, ha consentito alla Turchia di avere come zona economica esclusiva buona parte del Mediterraneo orientale, in cui ci sono anche i giacimenti di Cipro e degli altri paesi, e di proiettarsi verso la zona economica esclusiva della Libia, con il cui governo, prima di appoggiarlo militarmente, ha pattuito di poter sfruttare le risorse gasiere che si trovano di fronte alla Libia e che, guarda caso, sono molto superiori a quelle del Mediterraneo orientale, a quelle dell'EastMed, a quelle cioè già scoperte dall'ENI e sfruttate dall'Egitto, da Israele, da Cipro e in futuro, come verrebbe, dalla Grecia. A questo punto, come vedete, le due questioni si collegano e il Mediterraneo orientale è diventato da 2 anni, anzi da 3, quando una fregata turca impedì alla nave Castoro 12 dell'ENI di forare il fondo marino per cercare il gas, sono diventate molto affollate e vi sono stati anche degli scontri, non solo mostrare i muscoli, ma anche un vero e proprio scontro militare tra Grecia e Turchia. Inoltre, oltre a questo bacino mediterraneo orientale di scontro tra tutti gli stati che ho elencato, vi è la questione del Mar Nero, dove la Turchia sta facendo attivamente una pressione antirussa appoggiando la Ucraina. Di conseguenza, come vedete, la Libia è un velico molle, il ventre molle di una guerra strisciante e permanente tra tutte le potenze imperialistiche, medio imperialistiche, regionali. Questa guerra avanza per quale motivo? Avanza per le materie prime? Senz'altro avanza per le materie prime. Avanza per l'influenza politico-militare che ogni Stato vuole conquistare? Senz'altro. Ma sotto a questa guerra, sotto il ribollire di questa guerra possibile, strisciante o aperta, vi è la questione del controllo delle masse. Questo è particolarmente chiaro per due stati che sono protagonisti della situazione libica e dell'est mediterraneo, Egitto e Turchia. Sono due stati in potenziale bancarotta. Sono due stati economicamente falliti. Sono due stati tenuti in piedi dalle perfusioni finanziarie dei petromonarchi, dei petroparassiti, per l'Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi, per la Turchia, Qatar e anche Azerbaigian. Ma questi due stati hanno una situazione sociale che è difficilmente controllabile, anche se alla classe dominante militare o politico-militare, militare egiziana, politico-militare turca, arrivano decine di miliardi di dollari da parte dei petromonarchi. La Turchia dal 2016, dal colpo di Stato e controcolpo di Stato di Erdogan, è in una situazione di latente guerra civile. Guerra civile aperta nel sud del paese, nel sud-est, contro i curdi. Guerra civile che ha percorso anche le città e che vede contrapposto il governo di Erdogan e i suoi alleati fascisti del Partito della Nazione, dei lupi grigi insomma, e dall'altro lato una parte della opposizione. E questa guerra Erdogan cerca di vincerla e in parte la domina o la porta avanti nel tempo con l'avventurismo militare. L'avventurismo militare della Turchia non nasce solo per necessità espansive estere, nasce perché è l'unico modo per il governo turco attuale, per quella commistione schifosa, spaventosa tra militari e governo islamista e nazionalista. Il nazionalismo turco è una delle più violente manifestazioni politiche di una borghesia che la storia conosca. L'espansionismo, dicevo, turco all'estero, in questo momento in tutti i teatri di guerra attivi nel Mediterraneo allargato, dall'Iraq alla Siria, dove ci sono truppe, in Azerbaigian, dove hanno guidato le i droni per sconfiggere i carri armati armeni. Perfino nel Mar Nero, dove sfidano la Russia o ovviamente la Libia, più le basi militari che la Turchia ha nel Corno d'Africa e in altri paesi, bene, questo nazionalismo militaristico è l'unico modo che la classe dominante turca, l'arma che la classe dominante turca ha utilizzato per contenere la situazione economica e sociale altrimenti non controllabile. Non basta mettere in galera decine di migliaia, centinaia di migliaia di oppositori. Non basta condannarli a morte come hanno fatto con la Emru, la collega e compagna avvocata. Non basta tutto questo, perché la rivolta giovanile, e per ora non abbiamo notizie certe, ma secondo me anche dei lavoratori, contro l'inflazione, la caduta dei salari, è permanente. E solo il nazionalismo, e col nazionalismo la necessità di acquistare, cioè saccheggiare laddove possibile ricchezze, non solo materie prime, può consentire a Erdogan e alla sua banda militare di stare in piedi. Ogni impresa militare, pensate soltanto a quello che stanno facendo in Libia, hanno chiamato a rapporto, come se avessero la forza di mantenere a lungo questo rapporto, 13 ministri libici per dirgli: ci dovete garantire scambi commerciali di 5 miliardi all'anno, ci dovete pagare le vecchie cambiali che dovevate sotto Gheddafi in seguito alle imprese turche, ci dovete garantire lo sfruttamento del gas al largo della vostra zona economica esclusiva, ci dovete fare questo, ci dovete pagare i vostri soldati. È evidente che questa politica turca, che è una politica rapace, non può che aggravare la situazione anche in Libia. E qui vengo a noi, all'Italia, aggravare i conflitti con le altre potenze. L'Italia, il 6 aprile, dopo aver magnificato la presenza del nuovo governo, l'accordo delle Nazioni Unite e così via per il nuovo governo, il fatto che il nuovo governo riapriva gli affari, eccetera, l'Italia ha fatto una cosa con Draghi che ha lasciato di stucco. Draghi, che sa usare le parole e non le usa a caso, ha dato a Erdogan del dittatore. Erdogan ovviamente ha reagito in modo piccato, anche offensivo, quanto l'offesa ricevuta, e ha chiamato a rapporto i 13 ministri turchi. Ma può la Turchia garantirsi il controllo della Libia contro l'Italia, contro la Francia, contro la stessa Russia, anche se con la Russia ha qualche interesse comune? È chiaro, secondo me, che non può farlo, e quindi le pretese turche si scontreranno di nuovo in modo armato in Libia con le pretese italiane, egiziane e così via. Termino appunto sul fatto della politica italiana. Le parole di Draghi ai libici: vi daremo l'autostrada, vi rifaremo l'aeroporto, autostrada che va dal confine tunisino al confine egiziano, e quindi autostrada di 1800 km. Vi daremo anche l'appoggio militare perché teniate prigionieri i migranti, come eravamo d'accordo con Gheddafi, patto Gheddafi-Berlusconi del 2008, e come eravamo d'accordo anche in seguito con Sarraj. Vi daremo anche la possibilità di avere le nostre imprese con legni che vi garantirà lo sviluppo della produzione petrolifera, del gas e così via. Ma l'Italia, per fare tutto questo, ha bisogno di una presenza militare, ha bisogno di una politica di presenza militare non secondaria, ha bisogno di schierare davanti alla Libia, come sta piano piano schierando, la sua flotta, che è la più, finisco, che è la più importante flotta del Mediterraneo, a parte ovviamente la sesta flotta americana e la flotta francese. Ha bisogno di mostrare i muscoli al concorrente turco come al concorrente francese. E per mostrare i muscoli in questo modo deve condurre la politica di riarmo permanente. Tutto il bilancio militare italiano degli ultimi anni è teso a rinnovare la flotta, a formare, a dotare la flotta della portaerei con gli F-35, a dotare l'esercito e la flotta e l'aeronautica di un controllo attraverso, di un comando centralizzato attraverso satelliti e così via, cosa che la Turchia momentaneamente non ha, cosa che può avere la Francia. Inoltre, l'intervento dell'Italia a fianco della Francia e la pretesa dell'Italia di rimanere in Iraq e di prendere addirittura il comando dell'operativo americano della forza NATO in Iraq significano che il nostro imperialismo giocherà le sue carte sulla linea militare. Linea militare che appare essere, che si presenta anche come la linea dello sviluppo delle industrie e dello sviluppo dell'occupazione, secondo la borghesia, nel piano di nel Recovery Fund, di cui circa il 30% dei fondi è di destinazione o derivazione delle industrie militari. 150 industrie in Italia, a partire da Leonardo Fincantieri, vogliono avere il controllo di 30% dei fondi che verranno stanziati, oltre ai fondi ordinari. Insomma, questo è quello di cui dobbiamo discutere, perché lo strumento militare viene presentato non solo come la garanzia di fare affari, ma come la garanzia della sopravvivenza del paese, dentro cui tutta la popolazione, la classe operaia in particolare, devono stare. Questo è il senso della politica dell'attuale governo e di quelli soprattutto che in una diversa fase lo sostituiranno. Sono stato un po' lungo, scusate. Se ci sono, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ok, no, se si vuole, se qualcuno ha qualche domanda da porre, qualche considerazione, può. Ecco. Volevo levare la sì. Ma adesso ti si sente? Ok, ho fatto casino tra un simbolo e l'altro. Se non c'è nessun altro dico due cose io, sì. Allora, interesserebbe secondo me ampliare questa visione di insieme, vedendo qual è il rapporto di, non di partenariato, ma di protettorato a questo punto, cioè di protezione, che gli Stati Uniti hanno proprio sulla politica militare italiana. Perché gli Stati Uniti chiaramente non stanno cercando, non stanno intervenendo in prima persona. Intervengono coordinando in parte la dinamica politica italiana verso la Libia, nella visione allargata però di uno scontro che non è tanto con le potenze europee e meno che mai con la Turchia, è con la Cina, perché questo c'è un casino sullo schermo. Perché la Libia non è solo affacciata sul Mediterraneo e ha questa enorme compito di far scontrare tutti, tenendo lo scontro possibilmente circoscritto, cioè non porca miseria, cioè evitare praticamente lo scontro diretto tra potenze. Perché le potenze hanno un punto di sfogo con combattenti altrui, forze comunque impegnate in funzione di controllo, ma non si scontrano direttamente. Quello che può essere invece il teatro che più interessa agli Stati Uniti è quello dalla Libia in giù. Non solo il Sahel, ma lì la competizione si allarga oltre che alle potenze europee, alle potenze d'area, si allarga verso la Cina. E quindi piacerebbe vedere se in questo senso c'è una, in questo non solo, no, se in questo senso c'è un uso degli Stati Uniti di una certa parte della politica italiana, che non sono sicura sia quella di Draghi. Valeria, il merito di mettere in luce il legame Stati Uniti-Italia. In questo momento, prima di Draghi e con Draghi soprattutto, l'Italia dice di essere un punto fermo, di avere un punto fermo nell'alleanza atlantica, ma soprattutto l'Italia ha un legame di ferro con gli Stati Uniti per due motivi. Uno, il fatto che l'Italia è entrata a far parte del programma degli F-35 ed è contractor praticamente di primo livello, tant'è che li ha ordinato non molti F-35 ma li costruisce e soprattutto li ha posizionati non solo sulle basi aeree ma anche adesso sulla portaerei Cavour e tra due anni sulla portaerei Trieste, che darà alla Marina italiana nel Mediterraneo una capacità di produzione offensiva notevolissima. Secondo, l'Italia utilizzerà, come già utilizzava gli F-35, per la costruzione, per il trasporto di bombe atomiche. L'aeronautica italiana è parte del programma di trasporto e utilizzo delle bombe B-61 posizionate a Ghedi e a Daviano. Quindi vi è uno stretto collegamento tra gli stati maggiori, americano e italiano. Terzo punto, i piani industriali comuni, non solo l'F-35, ma soprattutto la vendita agli Stati Uniti, anche se verranno costruite negli Stati Uniti da Fincantieri, delle fregate, le nuove FREMM, e poi tutta una serie di collegamenti con gli Stati Uniti per l'utilizzo di ritrovati elettronici di controllo. Ci sono per esempio i due Gulfstream che volano ogni giorno sul cielo italiano controllando tutto il Mediterraneo e costano 450 milioni l'uno. 450 milioni l'uno. Quindi da questo punto di vista vi è un patto per il momento ferreo tra Stati Uniti e Italia. Anche se l'Italia nel quadro della primazia vuole avvalersi del ruolo di vassallo, primo vassallo americano nel Mediterraneo, e in questo entra in contrasto ovviamente con la Turchia, ma anche con Israele, e si dovrebbe aprire tutto un altro campo di discussione sui rapporti e sul ruolo di Israele. Finisco dicendo che non ne parliamo oggi, ma quello che sta avvenendo nel Mediterraneo non è solo un attacco al proletariato egiziano, turco, italiano, eccetera, ma soprattutto la politica israeliana che è stata accettata dagli Stati Uniti con Trump e proseguirà con Biden, e soprattutto dall'Europa che non ha alzato un dito, suona la campana a morte purtroppo per il popolo palestinese. Richiesta di intervento, vedo, sì. Sì, può intervenire adesso che è chiesto. Se magari c'è la possibilità di aprire il video. Ok. Sì, sì, va bene. Ah, ok, adesso dico. Alzo un po' il volume. Sì, bene. Intervengo è la prima volta che partecipo a questa assemblea telematica, nell'attività precedente che avete fatto, insomma. Un lavoro sì, in questo senso, che mi è sembrato buono dal punto di vista di analisi. Io sono Enzo, di Proletari Comunisti. Di scusa, Proletari Comunisti? Sì. Condivido interamente, diciamo, l'analisi che è stata espressa nell'introduzione, perché si ritrovano tutti gli elementi, diciamo, che fanno comprendere l'importanza del Mediterraneo allargato per la politica italiana. Io appunto sulla NATO adesso non mi dilungo, prepareremo anche diciamo, un ulteriore articolo per il prossimo numero che verrà su questo nel giornale appunto Proletari Comunisti, ma quello che io su cui volevo intervenire in sostanza è proprio partire dalla fine, cioè da uno dei punti dell'appello per questa teleconferenza, cioè dal fatto dell'assenza di un movimento contro l'imperialismo italiano, contro l'interventismo italiano nel nostro paese. Una cosa diciamo necessaria proprio per l'attività che l'imperialismo italiano appunto nelle sfere mondiali sta esercitando nella divisione nella spartizione del monster di influenza, nella rapina delle risorse, che è stata l'Africa, un ruolo importante dell'ENI e di respingimento. Quindi diciamo l'importanza dell'imperialismo italiano deve trovare necessariamente una opposizione in questo, nel nostro paese. Per questo partecipo insomma, a questa, questo incontro, perché mi sembra diciamo, che potrebbero esserci i compagni giusti per poter formulare un tipo di lavoro che potrebbe assolvere a livello nazionale un comitato nazionale come quello che avete un comitato come quello che avete diciamo messo in piedi contro la guerra, contro la guerra imperialista e contro l'imperialismo italiano. E diciamo questa questione della Libia è fondamentale, centrale, come appunto è stata ben illustrata dall'intervento iniziale e dagli altri interventi. Ora noi su questo vorremmo dare il nostro contributo perché avremo, stiamo lavorando per un appuntamento online con compagni, con i nostri compagni, ma comunque con compagni sì, che la Tunisia appunto è un altro stato molto importante dal punto di vista del contrasto al respingimento dal punto di vista della politica imperialista e della penetrazione comunque in quella quindi noi faremo questo e appunto volevamo si sente un cazzo poco si capisce. Ma tutto diciamo tutto quello che ho detto? Sì. Vabbè, in sostanza quello che volevo mi si sente meglio adesso? Sì, meglio. Allora, brevemente, partiamo da uno dei punti dell'appello di questa teleconferenza, cioè dal fatto dell'assenza di un movimento contro l'imperialismo italiano, contro l'interventismo italiano. Quindi il problema, secondo me, centrale è quello di dare gambe a questo lavoro a livello nazionale, nella costruzione di un comitato nazionale contro la guerra imperialista e imperialista e l'imperialismo italiano. In questo senso noi stiamo già lavorando con in Tunisia proprio perché abbiamo rapporti dall'interno e abbiamo collegamenti reali con una rete di compagni e comunque diciamo chi è attivo in Tunisia contro il proprio stato fantoccio dell'imperialismo e contro l'imperialismo italiano. Faremo questo appuntamento in online in sostanza nella prima decade di maggio. Quindi volevamo sentire un po' anche sentirvi per diciamo darvi questa indicazione perché l'analisi è importantissima. L'analisi è importantissima e mi riconosco in quella appunto dell'introduzione. Ora il problema secondo me è proprio dare forza a questa analisi e coinvolgere, perché il nesso tra guerra imperialista, risorse che mancano alle masse, consenso nazionalista intorno ai programmi di governo, in particolare la politica estera, una politica estera che nel nostro paese la conduce anche in gran parte l'ENI. Quindi tutte queste questioni che hanno a che fare con le condizioni di vita delle masse all'interno dell'imperialismo, oltre che esprimere diciamo contatti reali, quello con la Tunisia ha questo di scopo, con chi subisce le politiche dell'imperialismo e lotta contro. Quindi dare forza a questa attività perché per far nascere appunto un comitato nazionale contro la guerra, imperialista e contro l'imperialismo italiano, a partire proprio sulla questione della lingua. E quindi diciamo lancio questa proposta a questo incontro, poi insomma ne riparleremo nei prossimi. Vi ringrazio per la disponibilità. Hai colto nel segno. Ma c'era qualcun altro? Perché avevo un'altra visione. Bene, se c'è qualcun altro, vabbè, allora in questo vuoto, in tutti quelli che rimangono, che sono all'ascolto, ricordo il prossimo appuntamento, che anche in questo appuntamento per collegarsi bisogna sempre scrivere al centro documentazione, che è venerdì prossimo, cioè venerdì 23 aprile, sempre alle ore 18, dove si affronterà ancora la questione Libia, ma ragionando sulla strategia politico-economico-militare dei governi italiani, le armi della diplomazia, degli affari e delle ONG. Io mi dico soltanto che quello che ha detto il compagno Renzo è di grande attualità, perché se il Mediterraneo è teatro di guerre imperialistiche e borghesi, lo è sulla pelle appunto dei proletari. La Tunisia non è seconda a nessuno per le lotte sociali che vi sono state per la forza sindacale del movimento operaio locale. Identica situazione abbiamo avuto, ma non abbiamo perlomeno contatti purtroppo con l'Egitto e con la Turchia. Però dal nostro punto di vista, dal punto di vista della lotta contro l'imperialismo e gli stati reazionari, non solo quelli razionali, ovviamente borghesi, la questione del rapporto con organismi dell'altra sponda del Mediterraneo è importante, per cui centro di documentazione dovremmo discutere di questa proposta, ovviamente penso. Ce l'ho fatta? Sì. Perché allora riempio il vuoto anticipando in un certo senso le considerazioni alla prossima riunione. Che in Italia non ci sia un movimento antiguerra o antiimperialista, questo ok, lo vediamo, non c'è in generale movimento in Italia. Se vogliamo affrontare più da vicino la questione Libia e Nord Africa, direi che dovremmo osservare che non c'è solo indifferenza nei confronti di questi paesi e assoluta disinformazione, ma anche una forma di complesso di superiorità. Ora, sono paesi che hanno effettivamente poca capacità o volontà, non so, di comunicare, di allargare il campo del loro intervento, quantomeno a informazione e a coinvolgimento. L'Iraq è differente, l'Iraq ha avuto un movimento estremamente forte e ha tuttora, tiene tuttora molto a dare comunicazione all'esterno. Se vogliamo comunicare, se vogliamo abbattere questa, questo preconcetto, perché di questo si tratta alla fin fine, preconcetto nei confronti del paese in Nord Africa, dobbiamo lavorare anche e tenendo contatti con i movimenti giusti o sbagliati, che ci piacciono o che non ci piacciono, ma che comunque tendono a un progresso, che ci sono in questi paesi, e sapendo che possono anche essere movimenti in formazione, in formazione di movimenti perdenti, anche perché noi personalmente facciamo di tutto per affossarli, non intesi come paesi del nord mediterraneo, non come ovviamente in compagnia delle persone qui presenti, che però non fanno obiettivamente molto per far capire che al sud del Mediterraneo c'è una cultura viva, ci sono delle popolazioni che avevano un tessuto sociale, economico e politico che è stato distrutto anche da noi. Semplicemente si lascia correre su questo, lasciamo che la percezione che si ha dei paesi nordafricani è quello delle povere vittime incapaci di fare da sé. L'ho messa giù un po' dura, però insomma non vado molto distante da quella che è la realtà. Valeria, non si sbagli, perché noi ci rifacciamo a un movimento proletario che c'è in questi, a parte la Libia, che è una questione specifica, in Egitto. Chi è attualmente sotto repressione? Chi è nelle carceri? Ci sono 65.000 oppositori politici, ma buona parte sono sindacalisti o operai o giovani. In Turchia non parliamo, li fanno fuori. Ma lì c'è una tradizione politica comunque sindacale e politica comunista, su cui ci sarebbe molto da discutere, ma che si rifà al comunismo, contro dei dittatori, delle borghesie sanguinarie, e noi con questi dobbiamo avere rapporti. Mica appunto, guardate che non ce ne abbiamo. Ma non ce li abbiamo perché non siamo riusciti a farlo, ma non perché li consideriamo meno di noi, anzi, da un certo punto di vista loro sono molto più avanti di noi, perché stanno sfidando in condizioni difficilissime delle dittature feroci, degli eserciti schierati all'interno del loro paese. E quindi, da questo punto di vista, poi con quello che sta avvenendo in Iraq e così via, altro che guardarli dall'alto in basso. Che cazzo dici, scusa, No, ma non parlavo di noi, parlo del senso comune e anche del senso comune. Il senso comune potrà cambiare. Una parte che si definisce sinistra. Se quella sinistra fa parte, era il governo, ha fatto l'accordo Berlusconi. Perché l'accordo Berlusconi del 2008 nasce dalla voglia di Prodi, nasce dal PC, dal PDS prima che dal PD. Dov'è la sinistra? Perché devi parlare di sinistra quando quella non è sinistra? È una posizione politica imperialistica pura, è quella che vuole far lavorare gli operai in Italia per costruire le armi più avanzate e venderle per utilizzarle. È quella che non contesta gli accordi per il trasporto delle bombe atomiche tattiche nel Mediterraneo. Quindi forse non ci siamo presi. Io rispondevo a Enzo, che è intervenuto prima, dicendo non c'è un movimento contro la guerra. È vero, le condizioni sono sfavorevoli, ma c'è anche una percezione di perché il movimento contro la guerra non è che lo costruiamo tra noi 5, 6, 10, 200, si costruisce nel territorio. Se a livello generale passa una specie di insofferenza anche verso questi paesi e completa disinformazione, la l'informazione noi stiamo cercando di darla. Abbattere quello che è una percezione comune che non è interessata a questi paesi, non solo perché non sanno che il Mediterraneo è un punto focale di tutte le guerre, di molte delle guerre in corso e che si prepara a esserlo ancora di più, ma anche perché non c'è comunanza, non c'è comunicazione con questi paesi. Questa comunicazione, secondo me, e rispondendo a Enzo che è intervenuto prima, è una delle cose che va creata. Non ce la vedo con noi. Comunque non era nel tema della serata, se vogliamo. Sull'analisi ho solo da aggiungere una cosa che mi differenzia, l'unica quasi che mi differenzia da Ivo. Lui parla di guerre per banda, di guerra per bande. Io non identificherei tanto le milizie con delle semplici bande armate, perché hanno riferimenti non solo internazionali, ma non solo internazionali a livello di stati, hanno riferimenti internazionali e nazionali a livello di organizzazioni estese ed importanti. Le milizie a me sembra che siano una cosa un tantino diversa dalle bande armate. Hanno strutture e organizzazioni, al di là dell'apparenza, piuttosto ben costruite. A partire, ne parlerei la volta prossima, dalla fratellanza musulmana, ma non solo. Anche lì molte milizie che noi direttamente finanziamo, non solo attraverso il governo, quello che è stato il governo libico, continueremo a finanziare queste milizie attraverso questo nuovo pseudo governo, ma Edi paga direttamente per essere per avere difesi le sue installazioni. Sono milizie che hanno un bel peso. Bija è appena venuto in Italia e Bija è uno dei più pazzeschi criminali che si sono occupati non solo del flusso dell'immigrazione, ma del contrabbando del petrolio. Ha rapporti con lo Stato italiano, con le istituzioni italiane, e diverse di queste milizie hanno avuto, penso che abbiano ancora, anche se sul presente non ho documentazione, rapporto con Eni. Chiamarlo bande mi sembra un pochino riduttivo. Tutto qua. Bene, c'è qualcun altro? No, Ivo è stato troppo bravo e li ha messi tutti a tappeto. Stanno dormendo tutti, traduzione. Voglio dire, se anche non c'è nessun altro, si potrebbe anche... C'è una mano. Io sono Daniele. Ah, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ma, fatemi che ci prendete la prima che partecipo, sono molto curioso per la prossima puntata dell'analisi che farà Valeria, perché se questi temi sono poco noti, ma sono assolutamente centrali, quello che immagino dirà Valeria è ancora meno noto. E quindi lo ascolterò con interesse. Faccio un domandone senza l'intesa di suscitare un dibattito adesso o meno, ma magari un interesse, uno sviluppo del discorso. Diciamo, io personalmente ritengo che abbia un certo peso specifico nel Mediterraneo, in particolare nel Corno d'Africa, in generale, in Africa in generale, cioè il peso della Cina, il peso della via della seta o comunque di tutti quei punti commerciali che la Cina ha e intenderebbe sviluppare. Il Mediterraneo è importantissimo perché non solo locale ma anche la porta di ingresso e di affermazione poi nei confronti dell'Europa. Cioè, credo che questo attore che rimane molto molto sullo stendo, anche perché non ha ufficialmente un interesse militare diretto, non appare sul palcoscenico, diciamo, ma oggi e soprattutto in prospettiva possa giocare un ruolo sempre maggiore. Quindi non so, volevo proporre, scusate, perché non è questa la prima volta che partecipo alla vostra interessante riunione, ma così, una riflessione, più che altro una riflessione che do a voi. Se per caso non c'è qualcuno che può essere interessato a sviluppare questo tema, che completerebbe per me la buona, l'ottima analisi che finora è stata fatta. Ma Daniele, l'argomento è sicuramente molto interessante e ti anticipo qualche cosa che da lontano c'entra con quello che dici tu. Quando noi, e che non abbiamo ancora finito, però abbiamo preso in considerazione la questione America, che non riteniamo di aver concluso con quella puntata, ma dovremmo dedicarci ad altre puntate, e un'altra puntata in costruzione dirà da venire, però riguardava proprio America e Cina. Questo al di là di quando Trump gridava molto forte e adesso vedremo Biden come si comporta. Comunque il rapporto era molto interessante perché evidentemente si sta parlando. Da una parte gli americani raccontavano che questo sarebbe stato il loro secolo e non mi sembra che abbiano centrata come previsione. Dall'altra nel frattempo qualcuno andava a dire che no, invece sarebbe stato il secolo cinese, cioè che i cinesi avrebbero soppiantato, e poche parole, avrebbero dovuto andare a svolgere quel ruolo che gli americani in declino stavano perdendo. Questo era il primo approccio di andare a verificare. Dentro questo meccanismo è indubbio che le attività molto conosciute da noi, perché ci si può documentare molto su quanto loro fanno fuori, ma dentro l'informazione che si può avere direttamente dalla Cina, al di là di non conoscere il cinese, ma non è che traspaia molto, però credo che si possa trovare un ragionamento per approfondire anche magari a sezioni, come dicevi tu, cioè, tanto per farla breve, la penetrazione cinese nell'Africa, ecco. Al momento si configura in forme completamente differenti con le quali tutte le altre potenze sulle sponde del Mediterraneo si muovono. Però sì, accogliamolo e vediamo di ragionarci. Sì, ma la Cina ci ha messo il suo piede militare per la prima volta in un paese straniero, e cioè a Gibuti, dove ha una delle più grosse basi. Gibuti vive esclusivamente perché affitta il suo ruolo per delle basi ai vari stati imperialisti. Anche l'Italia ne ha una, non molto grande, per cui paga 30 milioni di affitto anno, 30 milioni di affitto anno per tenere qualche centinaio di uomini. La Cina vuole giungere fino a 10.000 uomini e avere anche un accesso portuale. E quindi è evidente che la Cina, proprio perché è presente in Africa, economicamente notevolmente vuole, si sta estendendo anche militarmente. Tuttavia la riunione di oggi era proprio legata al nostro, virgolette, cortile di casa che va fino alla Nigeria. Quindi certo dovremmo discutere anche di quello che dice Daniele, però è molto ampio, porrà dei problemi. Marco, come al solito non ti si sente. Ci sono due interventi. Sono due interventi che si sono prenotati. No, io devo abbassarli. Sì, no, non sei tu. Bisogna vedere il nome di uno, perché è ospite, un altro rivolto. Dico io una cosa in velocità? Sì. Molto velocemente, visto l'ora. Io credo che una delle questioni più importanti che noi dovremmo affrontare proprio in relazione al cortile sul quale ci affacciamo, il Mar Mediterraneo, e l'ampiezza in questo momento del movimento proletario in tutta la fascia nordafricana, dal Marocco all'Algeria, al Libano, all'Egitto, ci sono decine di migliaia di proletari che sono in piazza, la Tunisia, come ricordava prima il compagno, e sono in piazza. E questo, secondo me, è importante per quell'aspetto che diceva Ivo nella sua introduzione, e cioè che una delle caratteristiche dell'intervento militare in questo momento, che caratterizza gli interventi militari, è quello del controllo delle masse. Ora, noi certamente abbiamo una situazione in Libia che ci in un modo o nell'altro di valutare un intervento militare, la presenza c'è già, ma sarà, io credo, da tenere bene in considerazione come un intervento militare di tutte le potenze imperialistiche tra loro in conflitto, tra loro in rapporti sicuramente conflittuali o antagonici, o anche delle potenze locali, dovrà essere valutato anche in relazione allo sviluppo delle lotte che sono presenti in tutta la fascia appunto nordafricana in questo momento, che sono delle lotte estremamente importanti perché investono proprio il proletariato marocchino, algerino, libanese, egiziano, turco. E quindi sotto questo aspetto, questo profilo, il problema anche del centro di documentazione contro la guerra è quello di affrontare anche questo tipo di tematiche, perché credo che siano nelle cose soprattutto del prossimo, ma prossimo futuro. Se possibile, prima di finire, quando è il caso, vorrei dare un'informazione. E dalla Valeria? No, non c'è proprio più niente. Allora, domani a Trieste apriremo la campagna contro le frontiere chiuse. Speriamo che ci sia, abbiamo fatto il 6 aprile c'è stato un evento abbastanza importante che ha coinvolto 35 località e posti di frontiera sulla questione dell'opposizione alla rotta balcanica e alla chiusura delle frontiere è stato un episodio. Da questo nasce la possibilità, speriamo, di aprire una battaglia vera sullo slogan "aprite le frontiere", domani a Trieste da mezzogiorno in poi. Cioè, da qui che vi saluto tutti, ragazzi, che sono già sul posto. Io vorrei aggiungere brevemente questo. La Russia è intervenuta pesantemente in Libia, ma gioca la Libia come carta per stare nel Mediterraneo, consolidare il suo predominio siriano, e comunque è pronta anche a venire a patti con l'Italia per lo sfruttamento del gas. Non dimentichiamo che prima dello scoppio della guerra di Haftar, Leni aveva introdotto, aveva fatto degli accordi con Gazprom per la presenza comune in Libia. Tuttavia la Russia è senz'altro una grande potenza militare, non solo in Europa e in Asia, ma specificamente nel Mediterraneo, ma non è una potenza economica, non ha la potenza economica che possa poi fermare altri concorrenti con cui dovrà venire a patti. Insomma, da un punto di vista economico, la Russia vale in parte quanto la Turchia o poco più. Cerchiamo di dare anche la prossima settimana un certo risalto al nostro prossimo incontro. No, dicevo, certo, noi abbiamo fatto come si fa al solito e anche di più questa volta, e ripeteremo tutto attraverso i canali che usiamo normalmente, e poi se tutti, chiunque riceve questa cosa, questa volta chiaramente la rimanderemo spezzata solo per quanto riguarda la seconda parte, faccia girare dove crede più opportuno, liste sue, eccetera eccetera. Più di questo, vabbè, allora tenete presente l'intervista, vi ha mandato chi è per domani, chi vuole collegarsi a quell'altra cosa che siamo stati invitati. Segua, cioè, vi ho mandato sia il programma che le modalità di collegamento. Ciao a tutti, allora. Dai. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.